Cari amici, eccoci a una nuova puntata della Tela Sonora, Cuore di Poesia, su Radio Alma 101.9, pronti a farvi ascoltare, come promesso nella scorsa puntata, la seconda parte dell'intervista insieme con Gennaro Tidi e Alma Megretta, con il quale abbiamo ascoltato insieme appunto a Gennaro tutte le canzoni di Dub Fellas volume 2, il nuovo disco degli Alma Megretta. Nella puntata della scorsa settimana abbiamo ascoltato gran parte, ce ne sono altri da ascoltare, con Gennaro Tidi che ci racconterà tante cose davvero interessanti, almeno nella prima parte di questa puntata. Poi nella seconda parte altre sorprese, come sempre. Questa è la Tela Sonora, Cuore di Poesia, Radio Alma. Io sono Massimo Di Martino e ci sentiamo dopo appunto questa intervista, la seconda parte dedicata agli Alma Megretta, all'uscita del loro nuovo disco Dub Fellas volume 2.

μένα αγάπη μου, μην το λες εμένα αγάπη μου. Δεν μπορείς να παίζεις με την καρδιά μου αγάπη μου, γιατί δεν μ' ακούει αγάπη μου, γιατί δεν μπορείς αγάπη μου, γιατί δεν μπορείς να μιλείς εμένα. Mm-hmm.